nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Quante cose, quanti fatti anche questa settimana, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Stavo cercando ogni volta, mentre ci avviciniamo all'inizio, sono lì come un frullatore che rimugino un po' tutte le cose che sono successe. Io ve ne elenco come sempre qualcuna, però tenete conto che poi sono le vostre libere opinioni anche a dettare un po' la linea qui del programma. 800 24 00 24, sapete che l'obiettivo con voi è quello di ogni sabato di confrontarci appunto sulle notizie della settimana e ritornare su alcune che, sulle quali in particolare volete fare le vostre riflessioni. Per esempio, naturalmente, fra le notizie, io magari segnalo le più importanti, ce ne sono molte altre: l'omicidio dell'attivista Rigoni nella striscia di Gaza, il brutale omicidio, poi la sentenza sul rogo della ThyssenKrupp, e questo è veramente un fatto di giurisprudenza piuttosto eccezionale, no? Che sia stato condannato a 16 anni e mezzo, comunque condannato per omicidio volontario un imprenditore, poi il primo via libera che c'è stato alla prescrizione breve con tutte le polemiche, il cancan, eccetera eccetera. Dite anche voi che cosa pensate, cosa avete capito per esempio di questa prescrizione breve. Poi l'emergenza immigrazione, vedevo dai titoli dei quotidiani online gli immigrati in coda per i permessi, pressione su Ventimiglia, la Francia che avverte valido solo il passaporto, e quindi insomma questo caos continua. Poi Fukushima, che ormai stracciati un po' di veli, non tutti, delle varie bugie e copertura, è stata ufficialmente paragonata alla tragedia di Chernobyl. Gli sviluppi della guerra in Libia, leggevo adesso delle agenzie che ancora continuano bombardamenti frenetici e insomma comunque guerra tra gli insorti e le forze di Gheddafi. E poi due altre cose, fra le tante, questi manifesti che sono apparsi a Milano con la scritta via le BR dalle procure, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. E ancora su sia Repubblica.it che Corriere.it c'è uno come prima, l'altro come seconda notizia: Berlusconi che ritorna ad attaccare quelli che definisce professori di sinistra e scrivendo un messaggio, dando un messaggio all'Associazione Nazionale delle Mamme, dice: sottraete i vostri figli ai prof di sinistra, diffondono valori contro la famiglia. Ecco, per esempio su questo mi piacerebbe sapere la vostra opinione, se avete esperienza come genitori, come mamme, come padri, eccetera, di figli che ritenete condizionati da professori di sinistra. 800 24 00 24. E poi, come sempre, mi piace anche confermarci, insomma, questo titolo, non ci sono più le mezze stagioni. Questa volta, devo dire, pensando alle cose irraggiungibili, no? Che possono essere degli orizzonti fisici o ideali, degli status delle persone, delle cose, vengono in mente anche come strutture, per esempio i grattacieli, no? Sono delle cose che svettano verso l'infinito, verso il cielo, sono delle cose irraggiungibili. Ebbene, il grattacielo più famoso del mondo, l'Empire State Building, che è anche il più alto a Manhattan, quindi comunque a New York, ebbene viene messo in vendita, nel senso che tutti possono acquistarlo, può essere accessibile a tutti, no? Dicevo, un grattacielo altissimo di 102 piani, Art Deco, una cosa storica, epocale, eccetera. Bene, tutti potranno acquistarlo attraverso delle azioni. Un pezzettino dell'Empire State Building può essere di ognuno di voi. Non viene precisato il prezzo di queste azioni, almeno di partenza, però insomma lo sapete, cambiano come cambiano le cose. Bene, a questo punto direi, bando alle ciance, tra pochissimo scopriremo chi è la opinionista estemporanea di oggi, una donna. Però volevo anche dare spazio un po' ai tanti ascoltatori e ascoltatrici che scrivono sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Dovete cercare appunto Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio, anche su questa proposta interessante della ministra Giorgia Meloni, che ha presentato questa proposta di legge con l'obiettivo di abbassare l'età per essere eletti alla Camera a 18 anni, quindi non più a 25 come avviene adesso, ma a 18. Cosa ne pensate? Vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori che hanno scritto. Francesco Spadafora, per esempio, dice: e perché non a 17? C'è un sottile filo di ironia. Poi Claudio Santarelli dice: il primo pensiero che mi è venuto in mente, probabilmente il figlio ancora minorenne di qualcuno ne ha già combinato una grossa. Che qua è molto ironico, dice, vedete, te lo voglio piazzare in politica perché così l'impunità. E poi Stefano Pini dice: il problema non è l'età di entrata o di uscita, ma quanti anni rimangono eletti. Ci deve essere, dice, un numero di mandati massimo, non si può fare i politici a vita. Anche questa cosa è interessante. Poi Dora Gagliardi dice: no comment, anzi poi aggiunge un recondito obiettivo. C'è un po' di diffidenza, diciamo, da parte di alcuni ascoltatori verso questa proposta, che poi sembra che abbia accolto un consenso bipartisan o bipartisan, come si dice. Pino Ricciolo dice: ma abbiamo un'idea dei giovani che hanno oggi 18 anni, non è ben altrismo, ma valutiamo i veri problemi che ci sono oggi in Italia. Forse bisogna dare un senso a un ministero. Ecco, cosa ne pensate di abbassare dai 25 ai 18 l'età per essere eletti alla Camera? E poi ho sottoposto anche alcune dichiarazioni, per esempio, agli ascoltatori, che sono state fenomenali in questa settimana. Silvio Berlusconi che dice: non mi ricandido. E poi Carmen Consoli che ha detto: se dovessi avere un figlio mi auguro che sia gay. Roberto Castelli che dice: bisogna respingere gli immigrati, ma non possiamo sparargli, almeno per ora. Cosa dicono gli ascoltatori? Monica Mazzoli dice: beh, direi che Castelli questa frase se la poteva risparmiare. Per quanto riguarda la frase di Carmen Consoli: non ho mai sopportato, dice, chi esprime preferenze per genere, razza, orientamenti sessuali, materia di figli, però in questo caso questa affermazione va presa per quella che è, cioè dice una semplice provocazione. Angelo Umana dice: Carmen a parte, quindi la salva, diciamo, siamo alla demenza totale, tanti non si accorgono che questi re sono nudi, e li prendono perfino sul serio. E poi Cristina Parruccini che dice: per la prima, cioè appunto per Berlusconi che non si, dice non mi ricandido, ormai dice non ci sono più parole da dire su di lui. Sulla seconda, su Carmen Consoli: se un domani avessi un figlio spero che nasca il più sano possibile. Benissimo, allora a questo punto andiamo a scoprire chi è l'opinionista di oggi. Maria Laura Rodotà. Buonasera, buon pomeriggio. Buongiorno, tu sei a Roma, Maria Laura, eh? Sì, lo so, a Roma da mezzogiorno in poi si dice buonasera, a Milano si dice buongiorno fino alle 6:30 inoltrate, si dice buonasera. Qui siamo nordici e vogliamo... Ora che sono tornata ritorno a dire buonasera. Buonasera, giusto, è bello anche questa varietà, perché essere tutti omologati, tutti uguali. Maria Laura Rodotà, famosissima firma del Corriere della Sera, commentatrice, è stata anche direttrice del settimanale Amica, insomma una lunga storia. Io conto molto sul tuo spirito piuttosto arguto, Maria Laura, perché ci sono veramente tantissime cose da commentare. Ricordo ancora il numero degli ascoltatori. Come si diceva, sì. Pure troppe. Troppe, vero? Quasi mi è venuto il fiatone. 800 24 00 24. Per esempio, se tu dovessi sceglierne così a freddo, anzi a caldo, diciamo, una tra le tante magari che io non neanche ho detto, qual è la tua notizia della settimana? Ma la mia notizia della settimana, per quel che riguarda l'Italia, direi che è il passaggio della prescrizione breve. Per quel che riguarda la politica internazionale, forse lo stallo della guerra in Libia e Fukushima. Senti, quello che riguarda la varia umanità, direi l'ultima uscita di Berlusconi sul sottrarre i figli agli insegnanti di sinistra. Ecco, partiamo da questa perché mi piacerebbe che tu dicessi la tua, ma anche che tu hai una figlia, mi pare, Maria Laura. Sì, ho una figlia. Ecco, mi piacerebbe sapere anche gli ascoltatori se hanno esperienza di questa cosa, al di là che ognuno, anche senza aver figli, può esprimere il suo parere, però se ne hanno un'esperienza diretta. Tu, Maria Laura, che, a proposito di questo, qual è il tuo commento? Ma il mio commento è che Berlusconi vuol far parlare d'altro in un momento in cui anche la sua maggioranza mi sembra abbia dei seri problemi di guerre di presunta successione, un ex ministro come Beppe Pisanu che propone insieme a Veltroni sul Corriere governo della di decantazione. Sera, il governo di decantazione che ti dà un'idea di cosa del vino. Infatti, che avevo pensato. Cioè, è anche, come dire, piuttosto elegante come formula, potrebbe perfino essere realistica, certo è deprimente. Comunque, in tutta questa bailamme non si capisce se di fine ciclo storico o se di incancrenimento di una situazione. Berlusconi, come si dice appunto a Roma, sa sempre buttarla in caciara, perché la storia della polemica sugli insegnanti di sinistra, tra l'altro, è la seconda volta che la tira fuori. Sì, a febbraio scorso mi pare che fosse stata la prima volta. In tempi piuttosto brevi crea indignazione, ma crea soprattutto quel che viene definita una diversione mediatica, per cui si parla d'altro. Detto questo, ma Io non mi viene più da commentare perché l'Associazione Nazionale delle Mamme non è un'associazione in cui francamente non mi riconosco, non sapevo che esistesse, ma... Diciamo, è il paese dell'associazionismo, una volta era gli Stati Uniti, ma diciamo anche molto l'Italia, adesso si distingue per questo. Senti, Maria Laura, mi dice Giorgio De Luca, ai telefoni già bollenti, che c'è un'ascoltatrice che già vorrebbe parlare della scuola pubblica e dell'affermazione di Berlusconi, che è Anna Amelia da Ostia. Ho detto bene, Anna Amelia? Sul nome composto? Grazie. Grazie. Io volevo dire una cosa molto semplice, sì. Che... ho 64 anni, un figlio di 40 anni che ha fatto fino all'università e poi l'esperienza di nipoti che studiano, che crescono e che vanno dai 5 ai 30 anni, che assolutamente non posso riscontrare una cosa del genere, perché la mia esperienza è che i professori di sinistra sono molto meno condizionati e hanno molto più rispetto del bene pubblico e quindi della scuola pubblica e meno dell'interesse egoistico del privato, quindi assolutamente questo appello alle mamme mi, non dico che mi ferisce, però veramente mi lascia proprio senza parole, come tante altre cose del nostro premier. Insomma, io credo che lui non dovrebbe fare questi appelli perché offendono veramente l'intelligenza dei genitori. Ti ringrazio, ragazzi. Anna Amelia, ti ringrazio. Io volevo chiederti, Maria Laura Rodotà, mi veniva in mente, no? Si dice spesso che il nostro è un paese sostanzialmente storicamente di moderati, anzi, se continua a reggere, diciamo, una maggioranza di centrodestra, vorrà dire che è una popolazione anche in maggioranza, anche magari non chissà quale stragrande maggioranza, però comunque una maggioranza di centrodestra. Quindi significa anche in qualche modo che allora questi condizionamenti, se mai ci fossero, non sono sufficienti, non sono efficaci. Ma a scuola si va per non molti anni in genere. Poi siamo in un paese in cui il 70% dei cittadini trae la maggior parte delle proprie informazioni dalla televisione e sostanzialmente da sei canali Rai e Mediaset, che sono abbastanza politicamente condizionati, diciamo, per cui io non so se sia un paese di moderati, certamente è un paese di gente con molte opinioni ma non moltissime informazioni. Poi sì, sono stati fatti degli studi in America sul cervello di sinistra, sul cervello di destra, sì, sui nostri modi di analizzare le situazioni. Certo siamo in una fase di stallo, di ogni tanto botte di assestamento che non si capisce più dove ci portino, ma certo io sono comunque d'accordo con la signora, non sul fatto dei professori di sinistra bravi a prescindere, sul fatto che certo la maggior parte degli insegnanti di scuola pubblica vota più a sinistra che a destra, è un dato, e anche lo posso dire dalla mia esperienza di genitore sia a Milano che poi a Roma. Nella scuola italiana pubblica ci sono moltissimi insegnanti seri e questa è una cosa che non si dice mai abbastanza. Cioè, non mi sento neanche di essere spiritosa, sono no, perché anche un po' stanca di questa polemica. E credo che ci sono persone spesso preparate, spesso che si aggiornano con fatica e con spesa personale, che guadagnano pochissimo e questo accanimento lo trovo sì anch'io offensivo. 800 24 00 24, cosa ne pensate di questo argomento, dei molti altri già citati, di quelli che magari avete in mente? E mi viene in mente, quando Maria Laura Rodotà hai citato il cervello di destra e di sinistra, lo avevo anch'io sottolineato qualche mese fa, mi ricordo che secondo questo studio americano, per esempio, vi accorgete se la persona che avete di fronte è di destra o di sinistra, perché se gesticolate, parlate e guardate ogni tanto in direzioni diverse, quello di sinistra segue i vostri occhi nelle direzioni in cui vanno, mentre quello di destra rimane così un po' più fermo. Queste bizzarrie. 800 24 00 24. Sentiamo invece che cosa ha da dire da Roma Alfredo. Buonasera. Buonasera Alfredo. A lei, gli ascoltatori. Diciamo che una serie di cose in cui sono d'accordo anche con quello che dice la vostra ospite. Allora, intanto pensiero su quella della ThyssenKrupp, la sentenza la ritengo, il fatto che è successo è molto grave, però omicidio colposo, omicidio volontario volontario mi sembra anzi, se ci fosse stato omicidio colposo, già è una cosa, omicidio volontario, cioè una forzatura, che forse nella seconda processo in appello sicuramente cambierà. Questo è il mio pensiero. Poi riguardo ai maestri di sinistra, non è il problema dei maestri di sinistra, non è solo Berlusconi. Se voi fate caso, sono anche gli altri, tra cui anche Gasparri e altri, che cavalcano sempre questo problema dei libri di scuola e che parla troppo di sinistra e che non si parla di destra. Scusami, per completezza di informazione, Alfredo, devo dire anche che 19 parlamentari del PDL guidati da Gabriella Carlucci hanno chiesto proprio una commissione d'inchiesta per valutare così, i testi. Infatti, questa cosa. Ma questo serve, come diceva bene la vostra ospite. Laura Rodotà, sì. Che Berlusconi è bravo a spostare sempre l'attenzione e come diceva uno che se l'è portato a fare il socio con lui nelle televisioni, bene o male parlate sempre di me, l'importante è che si parli di me, Mike Buongiorno se lei se lo ricorderà, diceva questo qui. Poi riguardo, questo è quello lì perché lui abusa, questo qui, il problema è andargli dietro, io quello lì che ho sempre detto, quando vanno a intervistare qualcuno come adesso Italia dei Vedori, Berlusconi ha detto questo, dice che commenta lei, senta, aspettiamo domani, perché domani probabilmente o dirà il contrario o dirà qualche cos'altro, quindi, e poi si rimanda sempre, non va commentato, quello che dice Berlusconi, l'errore dell'opposizione è commentarlo, la risposta è si commenta da solo, non c'è niente da commentare. L'ultima cosa che breve e che chiudo, sì? Io non sono d'accordo sui, i politici ci vogliono di professione, lo sa perché? Perché lei fa la giornalista, se lei dovesse andare e conoscere tutto il mondo che ruota intorno a lei, se lei dovesse andare a fare la politica, il politicante. Non hai fiducia, Alfredo, non hai fiducia in me? Se dovessi fare la. No, perché lei conosce i miei problemi? Io faccio il tassista, conosci i miei? Beh, ma i miei problemi li conosce? Cioè, secondo tutti quelli che sono in Parlamento, dai 315 deputati ai 600 e passa senatori, secondo te tutti conoscono il tuo problema della tua professione? No, il discorso è diverso. Una volta c'era la scuola. Sia il PC che la Democrazia Cristiana e tutti gli altri avevano una scuola, perché il politico è una professione, non è improvvisazione, è una professione, perché il politico deve conoscere, non perfettamente, ma i problemi di tutti, perché quando va a fare una cosa che favorisce la sua attività deve sapere se quella favore che fa, diciamo, quella agevolazione o quella cosa che va a fare non danneggi gli altri. Allora è questo, Alfredo, il politico, no, finisco il mio pensiero e forse non mi esprimo bene. No, ti esprimi bene, è chiaro, sì. Il politico deve conoscere un po' di tutto, perché il politico che lo fa fare improvvisato, quello dicono che fa due legislature, allora ci vado per fare i miei interessi. Comunque, Alfredo, sarebbe così da svuotare mezzo Parlamento, se non di più, perché la gran parte viene dalle professioni più diverse, dagli ambiti. Senta. Ho portato diversi, col mio lavoro ho portato diversi politici. Tra cui in politico, quando è stato fatto, che io vengo anche dal commercio e conosco anche i problemi del commercio, io potrei conoscere i problemi del commercio nel piccolo, i problemi del tassista, ma di altri problemi li vedo da fuori e vedendoli da fuori si ha un'impressione sbagliata da viverli dall'interno. Cioè, Alfredo, bisogna allora aver fatto tutte le professioni possibili e immaginabili. Comunque, al di là di questo, voglio sapere da te, Alfredo, sei d'accordo che si possa essere eletti alla Camera a 18 anni invece che a 25? Dimmi solo sì o no. No, assolutamente no, perché i giovani già adesso, il giovane se lei parla con uno, lui capisce tutto e gli altri non capiscono niente. E lei come me vede che ogni volta che va avanti, quello che pensava a 20 anni era sbagliato a quello che pensava. Qualcosa, sì. Senti, Alfredo, l'ultima cosa. Senti, Alfredo? Sì. Ma sì, quindi se io mi candido tu non mi voti? Questo è chiaro. Cioè, guarda, io sono uno che vota centro-sinistra. Non ho problemi a dirlo io. Ma al di là di tu. Allora no, io ultimamente non voto. No. Ultimamente non voto. Va bene, quindi, Alfredo, ho capito, quindi non mi voti, a prescindere, perché del resto se non voti. Allora io direi adesso, prima di sentire ancora le ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 00 24, io farei anche, giusto così, un po' per elevarci ad altre altezze, quantomeno, diciamo, super chilometriche, non per altro, un certo di livello di chissà che tipo, colleghiamoci anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, devo dire, questa settimana, più che guardare il globo terracqueo con il mio telescopio di sempre, avrei fatto meglio, per così dire, ad auscultarlo con lo stetoscopio, perché, soprattutto sul suolo italico, bisogna dire, è stato tutto uno sparare incessante, nel senso che ne sono state sparate delle belle. Cosa sarà, per esempio, a proposito di spari, che ha fatto sparare un viceministro delle sparate sullo sparare ai migranti? E cosa sarà che fa dire invece a un ministro quasi quasi ce ne usciamo dall'Unione Europea, forse eventualmente per aderire all'Unione Africana? E quale onirico, esoterica ispirazione o magari semplicemente una cena rimasta sullo stomaco fa dire a un intellettuale di lungo corso che per battere l'attuale presidente del Consiglio devono intervenire le forze dell'ordine? E cosa sarà che a Genova fa fissare nuove norme per la protezione delle formiche, ma fa andare a fuoco un centro di accoglienza per immigrati? E cosa sarà che con un coup de théâtre, diciamo così, un coup de théâtre, modifica d'improvviso il genere di barzellette care al presidente del Consiglio e gli fa dire: alla fine del mio mandato non mi ricandido? E ancora, cosa sarà che fa dire a un Renzo Bossi, detto il Trota, figlio del padre del leghismo, come folgorato sulla via del Comasco, dice: mi sento napoletano, mi sento terù? Quasi che il senatore più che una trota, ecco, avesse allevato, diciamo, una serpe in seno. E poi, cosa sarà che fa decidere a Nicole Minetti, consigliera lombarda e animatrice delle serate bungabunghesche, che le fa decidere, dicevo, una dura battaglia contro i parrucchieri abusivi, col facile, prevedibile rischio che qualcuno le dica: abusiva sarà lei? E per finire, altrimenti qui arriviamo alla notte terrestre, cosa sarà che fa dire all'ex prefetto Ferrigno, arrestato in questi giorni per aver ottenuto con false promesse prestazioni sessuali da alcune ragazze, tra cui una minorenne che sarebbe stata imbottita per l'occasione di cocaina, cosa fa dire, dicevo, al caliente, forse da qui il nome Ferrigno: io con quelle ragazze ho avuto soltanto rapporti affettivi? E del resto, si sa, nel mondo c'è tanto, tanto bisogno d'affetto, e proprio per questo incontenibile, diffuso bisogno d'affetto, seppure non sia certamente abitudine marziana a fare di queste cose, mi permetto questa volta di dare spazio a un'inserzione. Cerca sia benente, signorina ben fornita e intraprendente, cosa dolce e consenziente. Cerca sia apprendista, virtuosa, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna Giulinelli Pata, cerca sì, donna usata, già sicula o padana, oriunda clandestina. Oh, come paceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, ciak motore, azione poi si gira. Opporsi di interesse alla politica. Per carità, ritorniamo. Io, lo sapete, mi dissocio sempre naturalmente da quello che dicono da Marte, la marziana. Ecco, ritorniamo con i piedi per terra e volevo chiedere a Maria Laura Rodotà, mentre ricordo il numero alle ascoltatrici e agli ascoltatori, 800 24 00 24, per commentare i fatti della settimana, su quanto diceva Alfredo, no, sulla sentenza della Thyssen. Lui diceva: mi sembra un po' esagerato l'omicidio appunto volontario, dice, poteva essere omicidio colposo. Cosa ne pensi? Perché la questione di sicurezza nelle aziende, insomma, deve essere sottolineato sempre di più, con i tanti morti che ci sono in Italia sul lavoro, che non è uno scherzo, insomma, che bisogna essere consapevoli e ben attenti. Allora, beh, Alfredo ha detto una cosa improntata al proverbiale realismo dei tassisti romani: probabilmente questa sentenza verrà corretta in secondo appello. Grado. Secondo me è una sentenza importante, è una sentenza che che secondo me è stata una vittoria nella battaglia contro le morti sul lavoro, che giustamente Luciano Gallino su Repubblica ha detto ora non si potranno più chiamare morti bianche, perché qui si trattava di un impianto dove si era non colposamente, colpevolmente trascurato la sicurezza, perché era un impianto che si andava a chiudere. Sì, sì. E ci sono stati 7 morti. Il management di un'azienda che decide lasciamo perdere la sicurezza, tanto lo chiudiamo, quel che succede sa bene succede, quello che fa, insomma, i rischi che corrono, no, gli operai, sì. Questo. Quindi no, io penso che sia una sentenza importante, e penso che sia una sentenza che riporti di nuovo al centro del dibattito, perché è cruciale, e fino a qualche mese fa non se ne parlava più, il tema del lavoro in Italia, che è stato completamente obnubilato da discussioni su appunto bunga bunga, giustizialismo, scuole pubbliche, non scuole pubbliche, insomma che si parli di nuovo delle questioni importanti e con sentenze che fanno giurisprudenza mi sembra una delle, non mi viene da dire una buona notizia, perché dopo una tragedia del certo, genere non è mai una vittoria, non esistono buone notizie, ma insisto, una notizia importante. 800 24 00 24, ti ho chiesto Maria Laura, l'ho chiesto agli ascoltatori, allora, se sei d'accordo così brevemente sui 18 anni, la proposta di legge della Meloni per fare eleggere a 18 anni alla Camera, perché lei dice un modo per avvicinare, anche un modo per avvicinare i giovani alla politica, visto questo disamore, disaffezione ormai di anni. Ma un giovane che a 18 anni voglia fare il deputato, io lo troverei molto strano. No, a me sembra una stupidaggine, mi sembra un'altra di quelle boutade lanciate lì per far parlare d'altro. Mi pare che però abbia ottenuto un certo... molti adolescenti per mestiere, essendo la mamma di una di esse. Ah no, pensavo che gli adolescenti fossero per mestiere, adolescenti non sei tu che per no, è sì. Un mestiere che tutti noi abbiamo cercato di esercitare finché c'è stato possibile, io fino a pochi mesi fa, credo, però ti onestamente sfugge il controllo, sì. Il concetto di maturità forse esiste ancora, a 18 anni si è abbastanza maturi per votare, forse non ancora maturi per rappresentare degli altri cittadini. Io sono d'accordo con te in questo, si senza nulla voler togliere. Di studi che per quanto possa essere buono non è gioco forza completo, insomma. No, mi sembra una stupidata. Allora, anche se ti dicevo c'è un certo accordo bipartisan, anche se con alcune eccezioni. Vedevo diciamo, sulla nel tua pagina Facebook, sì. Un lettore che faceva un'obiezione che in altri tempi sarebbe potuta sembrare qualunquista, ora è sensata. Cioè, come cambiano i tempi. In un sistema politico come il nostro, faccio un inciso, in cui si viene candidati per cooptazione, ci sono le liste bloccate, eccetera. Le nomine, eccetera, sì. Chi verrebbe eletto? I figli dei politici e le Nicole Minetti, per non usare espressioni più forti, visto che siamo in radio. Per cui... un altro buon motivo per... A parte che non si farà mai, è ovvio. Vediamo come va a finire. 800 24 00 24, numero al quale ha chiamato Giorgio da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi richiamato. Grazie, grazie a te che hai chiamato, volevo Giorgio. Volevo dire questa cosa. Io, come dicevo all'interlocutore prima, ho 53 anni e ho un'esperienza di simpatizzante del Movimento Sociale Italiano. Sì. Ho fatto le scuole, il liceo dal 71 al 76, quindi negli anni caldi. Benissimo. Scuole statali? Scuole statali, scuole assolutamente statali, le scuole private sarebbero da chiudere, è una cosa che non ha senso laddove lo Stato fornisce scuole di ogni tipo, di ogni ordine e grado, praticamente ovunque, non capisco l'utilità della scuola privata. Detto questo, pur avendo fatto il liceo classico a Roma in quegli anni molto caldi, ed essendo assolutamente schierato, non ho avuto alcun tipo di problema con un professore di matematica e fisica che era dichiaratamente comunista, che era il più corretto, il più integerrimo che ho mai avuto e la persona per la quale le persone, gli studenti valevano solo per quello che facevano in classe. Non ha mai tentato di portare qualcuno sulle sue posizioni. Allora, cosa mi viene da dire? Che naturalmente è soltanto una questione di persone. Se le persone sono scorrette, lo sono da una parte e dall'altra, e purtroppo, ahimè, quanta delusione quando vedo come sono stati infangati gli ideali per cui gente della mia età è morta. Detto questo, per quanto riguarda poi il discorso del voto ai 18 anni, ecco, sì, concordo chiedere, assolutamente con la dottoressa Rodotà, in quanto al di là del, come dire, delle possibili patologie che sarebbero naturalmente dietro l'angolo, è proprio un fatto di... forse la Meloni si dovrebbe interrogare sul perché i ragazzi non hanno più quegli ideali che forse aveva lei quando aveva 18 anni e che certamente aveva la mia generazione. Ti ringrazio, Giorgio. Grazie a lei. Ciao Giorgio. E Luigi da Torino, cosa ne pensi tu invece dei 18 anni per poter essere eletti alla Camera, poi 25 invece al Senato invece dei 40? Ma penso che 18 anni sia ancora molto giovane per occupare un posto del genere. Sono immaturi ragazzi, io insegno in una scuola superiore e vedo che a 18 anni sono ancora molto bambini. Sei un insegnante tu, Luigi? Sono insegnante precario da 26 anni. Precario da 26 anni? Sì, questo vorrei dire a Berlusconi, piuttosto che dire queste fregnacce, di mettere a posto un po' di persone che non sanno se andranno in pensione oppure no, o non sanno se il prossimo anno lavorano oppure no. Cioè è una situazione veramente drammatica. Io ho dei colleghi che alla mia età quest'anno sono rimasti tutti a spasso, a 54 anni. Io insegno disegno tecnico agli studi tecnici industriali e sono in primo in graduatoria e non riesco a prendere la cattedra tutto l'anno. Io quest'anno ho 4 scuole e con 15 ore prendo 1200 euro al mese e si può la persona laureata con tutti questi anni di studio, con tutti questi anni di precariato, arrivare a 54 anni e prendere 1200 euro al mese. Non lo so, dica lei. Senti Luigi, ma adesso scusami se lo ricordo vagamente, non ho la stessa focalizzazione su tutte le notizie, specie se non sono proprio degli ultimi giorni, a parte quelle che richiedono un po' di memoria storica, ma questa specie di class action che minacciavano insegnanti precari, tu ne sai qualcosa Luigi? Ci ma puoi partecipare? Ho fatto un ricorso con tutti gli altri, però siamo talmente tanti che non so come fa lo Stato ad assumere tutti, ma io non dico di assumere tutti, però almeno quelli che sono da 10 anni che fanno precario, voglio dire, assumo almeno quelli più vecchi. Chiaro che sono 2-3 anni uno può anche sopportare, ma 26 anni non è un gioco, è una vita. Cioè, e come me sono tante persone, non sono l'unico. E nelle scuole statali io penso che più del 50% sono precari, perlomeno nelle scuole dove insegno io a Torino il 50% sono precari. Poi a proposito delle scuole private, io all'inizio della mia carriera ho insegnato nelle scuole private, è uno schifo. Le scuole private si paga la retta e in base alla retta si ottengono anche i voti. Luigi, le chiuderei come l'altro amico di Roma che si è arrivato prima. Ti ringrazio Luigi, poi naturalmente se c'è qualcuno che ha un'opinione contraria il numero è sempre verde gratuito, quindi 800 24 00 24. E sentirei anche Tina da Magenta, provincia di Milano. Pronto? Pronto Tina. Salve, io mi rifacevo praticamente all'inizio quando ha detto un po' tutti i fatti della settimana. Sì. Ha tralasciato il più importante però. Sta prendendo un'aria un po' sinistroide. Chi? Oddio, anche se l'ha sempre avuta, dico la verità. Chi? Ma chi, Tina? Sì, lei. Ah, io sto prendendo un'aria sinistroide? Sì, mi sembra che... No, perché insomma, il fatto più importante, grave oserei dire, è stato... praticamente l'uscita Tina di... Tina aspetta prima che tu dica qualsiasi cosa. Sì. Tina, sì. io tu mi senti dall'inizio, dal primo minuto d'inizio di Non ci sono più le mezze stagioni? Ma sì, ecco, quasi aspetta, sempre aspetta, anzi. no perché ti perdi sempre la mia premessa. Io ve ne racconto, ve ne cito, ve ne sollecito qualcuna di notizie della settimana, sappiate che ce ne sono tante altre, se ne avete una voi ditela, no, di principale, però di meno importante quella, l'intervento, l'intervista che ha fatto la Azzorrosa, tant'è che anche Cruciani in l'ha ricordata la Marziana, ma tu sì, hai sentito la Marziana il professore da colpo di stato, Tina, ma sì. Tu l'hai sentita la Marziana che ne ha parlato? Da no. Marte? Non hai sentito il collegamento da Marte, Tina? No. Allora non mi ascolti, adesso. Tina, scusami. No, non è che lo ascolto. Purtroppo ogni tanto qualche pezzo me lo perdo. È una delle cose più importanti. Seguo la zanzara, seguo il mattino, ma insomma non sì, sempre. Ma il collegamento con Marte è una cosa che succede solo in questa trasmissione. Nessuno si collega con un altro pianeta. Ma purtroppo sabato magari sono in giro. Adesso perché sono in macchina, sto andando a Milano. Ti farò rapire da una navicella spaziale, Tina, così la prossima volta ascolti le riflessioni da Marte. Va bene, sì, comunque. Ecco, prosegui. Però quella di Azzorrosa, ecco, sì. Veramente è una cosa grave. Bisognava dirlo, onestamente. Ma la marziana l'ha detto, Tina. Sì, io l'ho sentita. No, ma io voglio che lo dica lei adesso direttamente. Ah. capito? Con la sua bellissima voce, però insomma che lo dica. Ti ringrazio. Perché, ma siccome ecco, la scritta fuori le barriere dal Palazzo di Giustizia è una sciocchezza, ha capito, rispetto a questa. Ma diciamo che sono due cose che vanno abbastanza di pari passo. Allora lo ricordo brevemente, Tina, rimani in linea, per chi non lo sapesse, che Azor Rosa, appunto intellettuale di sinistra di lunghissimo corso, ha detto in questi giorni, ha scritto sul Manifesto, praticamente sintetizzo, che per contrastare quello che lui ritiene lo strapotere di Berlusconi, a questo punto non ci si riesce in altro modo, quindi che intervengano come in uno stato d'emergenza le forze dell'ordine. E mi pare insomma che ci sia stata anche da parte del centrosinistra, dai democratici eccetera, addirittura hanno firmato poi un appello sul Foglio di Ferrara per dire che loro si dissociano assolutamente, Tina, da questo punto di vista, no? Sì, certo, ma è lo strapotere più che di Berlusconi, è lo strapotere del Popolo della Libertà, perché siamo in tanti, ha capito? No, ma io l'ho detto all'inizio. È questo lo strapotere, non è lo strapotere di Berlusconi. Se andremo a votare che prenderà più voti l'altra parte, non succederà mai, ma questo guarda è poco ma sicuro. Ecco, fin tanto che c'è questa gente che si propone, ha capito? Ho capito, Tina, però la prossima volta promettimi che mi senti dalle 14 in punto fino alle 15. Punto. Benissimo. Perfetto. Affare fatto. No, volevo fare anche un'altra. Prego. Aggiunta, se mi permette. Ti permetto. Sono del Popolo della Libertà. Non si era capito. Ma non ho le fette di patate sugli occhi. Anch'io sono un po' incazzata da questa situazione, perché veramente il Cavaliere è un po' deluso. Ecco, per certi versi. Però, ragazzi, per quali versi? No, però dall'altra parte, insomma. E va bene. Per quanto riguarda la vita privata, perché insomma va bene tutto, ma insomma adesso era un po' esagerato tutto questo. Ecco, io voglio dire, ho fatto campagne per lui, l'ho incontrato diverse volte eccetera, perché nella nostra zona c'è il senatore, c'è molto amico, però onestamente anch'io mi sono un po' stufata, ecco, dico la verità. Grazie, però... Tina, conto sulla tua promessa, la prossima volta ti interrogo. Grazie Tina, adesso poco priva della viabilità, questa volta c'è veramente. Sintetico Domenico da Palermo, me lo consenti, Domenico, me lo consente a Domenico di essere breve? Sono qua. Anch'io, sono qua. Parliamoci, Domenico, parliamoci. Sì. Senti, io ho telefonato, stavo in macchina quando stavate parlando di scuola, di libri, eccetera. Sì. Io sono un insegnante. Anche tu. Lavoro a Palermo. Scuola pubblica o privata? Scuola pubblica, assolutamente scuola pubblica. Non credo a quella favola che chi è un insegnante di scuola pubblica vota a sinistra, vota a destra. Io credo che la cosa importante sia... comunque credo sia un dato di fatto abbastanza oggettivo che la gran parte degli insegnanti della scuola pubblica, ma questo non è mica una cosa in qualche modo negativa, che votano a sinistra o a destra. Votano a sinistra. La questione che invece volevo marcare era la questione del libro che è stato sollecitato dall'onorevole Carlucci, eccetera, eccetera. Cioè della commissione d'inchiesta sui testi scolastici. Allora, guarda, l'educazione dei ragazzi attiene ad almeno tre presidi culturali. Uno è la scuola, un altro è la famiglia, un altro è la società dentro cui loro vivono. E siamo d'accordo. Ora, i libri, io sono insegnante di storia dell'arte, i libri che loro leggono, li leggono veramente in maniera esigua, in parte e diciamo così anche in maniera frettolosa, perché oramai le indicazioni che i ragazzi hanno provengono da tante di quelle, come dire, emittenti che non sono soltanto televisive, ma ci metti internet, ci metti Radio 24, le radio, ci metti quello che vuoi. I ragazzi hanno talmente tanti stimoli che una frase sul libro o l'impostazione di un argomento sul libro non li può condizionare in un senso, assolutamente no. Guarda, non è assolutamente questo, penso che sia una commissione d'inchiesta che serva soltanto magari a qualche scuola radical chic, ma insomma io insegno allo Zen, vicino a una scuola vicino allo Zen. Uno dei quartieri sono considerati più degradati di Palermo. Cosa vuoi che gliene importi se il messaggio è di sinistra o di destra? Domenico, io ti ringrazio, salutami tanto Palermo. Prima di sentire ancora Maria Laura e le vostre opinioni, chiedo a Paolo Corleoni, alla parte tecnica, se riusciamo ancora una volta, ogni tanto ci tento, a collegarci col Parlamento e capire se tutto un po', diciamo, se il clima è un pochino più disteso. Non mi sembra, chiudi, grazie Paolo. E io volevo chiederti, Maria Laura, se per caso queste nozze bipartisan che sono state annunciate tra tra Nunzia de Girolamo del PDL e Boccia del PD possano essere un esempio, un modello, diciamo, in qualche modo di pacificazione, di armonia, un po' di trasversalità. Non so, perché io conosco dei due solo Francesco Boccia. che è una persona seria. Detto questo, per quanto siano tutte e due relativamente giovani, sono esponenti di una classe politica che in questo momento e negli ultimi anni non ha dato una grande prova di sé, né come esponenti della maggioranza né come esponenti dell'opposizione. Io forse vedrei volentieri qualcuno di nuovo fidanzato con chi gli pare, poi può anche essere divertente questa storia, sono stati un giorno da pecora, ci sono dei precedenti anche nella politica americana, cioè ci si può anche divertire, però io poi lo vedo perché anch'io sono una blogger, un forum sul Corriere.it che si chiama Avanti Pop, e sulla notizia del fidanzamento, convivenza, possibili nozze dei due, il commento più frequente preso dal film Boris, e anche questo non si può che dire in radio, ma è l'equivalente di "e chi se ne frega". Cioè, in questo momento, ahimè, siamo tutti un po' stremati a destra e a sinistra, e anche gli argomenti leggeri e pop ci... mentre prima ci divertivano, ci distraevano, ora ci stremano, evitano ulteriormente. Vediamo se è stremato, per esempio, il nostro Stefano Andreoli, autore, fondatore, insieme a Alessandro Bonino, di Spinoza.it, il click di satira più bloggato, più cliccato di internet. Stefano, buongiorno, bella sinistroide. Ciao, ciao, ciao. Ciao Stefano, come va? Tutto saluto anche Maria Laura Rodotà, abbastanza... una voce bellissima, è la doppiatrice praticamente. Hai visto? No, pago una signora di una chatline quando vado in radio, perché io in realtà ho una voce molto stridula. Sì. Hai capito che tecnologia raffinata siamo arrivati con questo. Bene, caro Stefano, fammi sentire quanto sei stremato rispetto a, diciamo, alla tua fotografia della settimana. C'è tantissima carne al fuoco. Per rispondere ad Alfredo, l'amico tassista, Berlusconi si commenta da solo, dice lui. Il problema è che si commenta positivamente, quindi non possiamo lasciare fare a lui questo lavoro, altrimenti... altrimenti lui si dice solo cose buone. Notizia purtroppo della settimana: ucciso un pacifista italiano. E il problema è che la specie si sta estinguendo. È vero. È un altro problema. Restiamo umani, come avrebbe detto Arrigoni. E andiamo avanti parlando dell'immigrazione. Vertice Italia-Francia, lunghissima discussione, ma alla fine è raggiunto l'accordo sulla corretta pronuncia di Fora di Bal. Si pronuncia così. Fora, non lo sai pronunciare, Stefano. Fora. Era un po' a francese, francese romagnolo. È tornato anche Speroni, ve lo ricordate, l'europarlamentare. Dopo anni rompe il silenzio per dire spariamo agli immigrati. Deve aver riflettuto a lungo per dire questa cosa, io ci credo. Affrontata oggi, proposto limite di 18 anni per entrare in Parlamento. Quindi potresti anche tu, volendo, insomma. Anche se le prossime candidate del centrodestra sono un po' scocciate all'idea di aspettare così tanto. Quindi potrebbe essere un problema. Questo era un po' facile. Procediamo, Prescrizione. Molti hanno scritto che il processo per la strage ferroviaria di Viareggio sarà toccato dalla norma sulla prescrizione breve, ma Alfano... Di questo si lamentavano Alfano garantisce che non è vero, nessuno potrà negare ai familiari delle vittime il giusto insabbiamento, quindi assolutamente non c'è problema. E adesso depilateci tutti, il caso Ruby. Depilateci tutti? Il caso Ruby tiene banco, chiaramente, la storia dell'attrezzo depilatorio. Berlusconi dichiara: ho pagato Ruby per non farla prostituire. Sì, così ha detto. Ecco, i più piccoli, la psicologia inversa funziona sempre. Non so se tu ci hai mai provato, ma assolutamente funziona. Tocchiamo anche questo altro tasto. Carmen Consoli dichiara: vorrei un figlio gay. Sì, l'ha detto. Pensa che sporchi di meno, ma credo che sia un po' illusa. Ora questa era un po' una scemetta. Chiudiamo questa censura mia metà, perché altrimenti va a finire male. Sara Tommasi, stai pronto, Paolo? Sara Tommasi sarà una prostituta su Rai 1. Poi era solo una fiction, Poi dopo tornerà a fare... Molto bene! Vai con Stefano Andreoli! Benissimo, grazie Stefano! E l'abbiamo liquidato anche lui. Adesso andiamo un po' più tranquilli, più sereni. Andiamo verso la mia linguista preferita della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle, alla quale vorrei sottoporre, cara Valeria, un termine che ritorna da più tempo e anche in particolare questa settimana: fango, infangare, la macchina del fango di cui parla tanto Saviano, fango sul PDL, dicono nei libri di testo i deputati che hanno proposto questa commissione d'inchiesta. Fango, infangare, dici qualche fango, cosa. Fango dappertutto. Allora, velocissimi, fango deriva da una parola di origine germanica, ma in ogni caso le prime apparizioni della parola nella lingua italiana risalgono alla fine del 200, sia nel senso concreto, materiale, di terra trasformata dall'acqua in fanghiglia, sia nel senso figurato di stato di abiezione morale. Con questo significato poi l'aveva già usata Dante nel Convivio, quando scriveva, cito, che gli uomini vivono senza sollevare gli occhi al cielo, tenendoli fissi nel fango della loro stoltezza. Ma quindi fango e anche infangare, sia in senso concreto che in senso figurato, quindi abbiamo detto risalgono addirittura alla fine del 200. Quindi non c'è nessuna novità in questo grande uso che se ne fa oggi. Chiuderei per citare ancora una volta fango con un proverbio che forse dovrebbe essere ricordato a chi nomina tanto, forse troppo, il fango. Il proverbio è: chi casca nel fango, più ci si dimena e più si imbratta. E beh, questo mi pare abbastanza logico, oggettivo. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi, ciao. Senti, riemergendo invece da questo fango infangare, cara Maria Laura Rodotà, praticamente in questi 32 secondi che ci restano, conclusione libera che vuoi fare sui fatti, se ne vuoi scegliere un altro così da commentare brevemente, o una tua chiosa, diciamo così, un po' lapidaria? La mia chiosa è che mentre tu parlavi dei tunisini in fila a Ventimiglia, io ho avviato un couscous. Non lo sapevo, ma è un modo per dire che è inutile che pensiamo di chiuderci, di dire fuori dalle balle, perché alla fine non possiamo più non contaminarci, la realtà dici. È complicata, è tragica e forse andremo anche a star peggio, ma non ci si possono coprire. È inesorabile, dice. Grazie Maria Laura Rodotà, io vi ricordo che potete riascoltarvi su podcast sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Facebook Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni, e appunto da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.